cammina sui canditi col gelato al limone. È zucchero filato che cade sopra i tetti. I sassi delle strade sono tutti confetti. Salta giù dal letto, guarda un po' dove sei. Il gallo adesso abbaia e la gallina fa ok. È il momento giusto per cambiare gusto. Un mondo alla rovescia che dà fuori di testa. Ehi, amico, è tutto ok. Arrivi giusto in tempo per sognare con noi. La vita vedrai è ancora più bella. Senti nel mondo di Caramella. Nell'aria, insegui una stella. Salta dentro al secchio, getta via la ciambella. Ehi, amico, è tutto ok. Arrivi giusto in tempo per sognare con noi. La vita vedrai, è ancora più bella. Senti nel mondo di Caramella.